Carlo, ciao qui, ci si vede magari quando scende al porto, vai. Se vedo la punta grigia con l'antenna al centro già mi avvicino, vai, ci salutiamo. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao, buonasera, dai. Ciao Eugenio, ci sentiamo in occasioni migliori. Ciao. Vai, occasioni migliori, vai. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao. Buonanotte. Cristian, adesso ti sento fondo scala qua, ti devi essere avvicinato nella mia zona, mi sa. Ma io sono all'agraria, mi appena. L'agraria? Sono vicini in agraria, non ti credo. C'hai l'eco inserito, credo. Adesso l'ho tolto. Sì, perché era troppo forte, capito, e non capivo bene. Mi pascoli adesso. Ah sì, allora linea d'aria già siamo vicino. Qua a fondo scala mi stai arrivando. Che antenna stai usando qui sul tetto? Una LEM T110-111 da 1,5 metri. Capito, ma su base oppure sulla capota l'hai fissata? Base magnetica. Sì, anche io me la prenderò una, però che non vada oltre il 1,5 metri, capito? Così quando la voglio togliere ci sta il portabagagli. Base la 150, monto sotto io, della Sirio. Sì, e va bene, no? Quanto ci puoi caricare là? 100 li regge, 50? Non so caricarci, però mi ha tenuto la macchina a 170, ha tenuto l'antenna. Allora già va bene, perché io ne ho una ma è quasi 2 metri, capito? Quindi avrei usato anche quella perché già esce bene, però è troppo lunga. Ma mi ha sentito, Antonio e Claudio, da Iti, ho sentito questa antenna qui, da Iti, il campo sportivo, un antennino. Sì, ho capito, già esci bene con questa antenna. È piccola, leggera, non... guarda, l'ho pagata da fusolo con la base 40 euro, c'è la fusolo uguale identica, guardate con la base magnetica. Andiamo, certo. Vai, piccolino lui. Andiamo. Stato Lucchettino. Certo. Luca Blossa. Buonasera, chi c'è qua? Ciao Luca, Carlo, io e Cristian siamo rimasti, c'era Eugenio, Mario da Porto Torres, ma hanno chiuso. Ciao Carlo, ciao Cristian, e io ancora un paio di passi, no, l'antenna l'ho staccata, perché non so cosa è successo, è giù a terra, è libera, anche io per il momento non ne ho, adesso vediamo in questi giorni se riesco a sistemare l'antenna bene, se no pazienza. Ho capito, quella roba dal tuo amico l'ho presa, è tutto a posto, grazie. Ci mancherebbe, si fa quel che si può, dai, non ti preoccupare. Tu mi hai chiesto, siccome mi ricordavo lo stava vendendo, e niente, va bene, pensate che vada bene. Ma in macchina l'hai messo? Di la verità no, lo stavo provando prima qua a casa, però funziona perfettamente, sembra uscito dal negozio, nuovo, capito? Anche lucido, Sì, io però facci vedere qualcosa, facci sognare. Ho staccato tutto, l'avevo messo volante prima, ho staccato tutto. E quindi non ce l'hai fatto vedere, vabbè. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera, giusto per un saluto. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. C'è Luca, Cristian e io, prima c'erano gli amici Porto Torres ma hanno chiuso là. E io sono di passaggio, giusto così per salutarvi. Sono un po' assente da qua, però. Giusto per un saluto, Ciao Luca, ciao Cristian e ciao a te Carlo. Ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio. Bene mera, mi sa che anch'io mi ritiro, che mi devo finire di mettere a posto qua, c'ho tutto il tavolo apparecchiato di fili, cavi, masterizzatori eccetera, e più avanti si prepara la cena. Ok Cristian, ciao Luca, ci sentiamo alle prossimine o più tardi, casomai dopo cena magari rientro se c'è qualcuno. Io facevo, non ci sono, però meno male. Ciao, buon tutti, dai, ci stiamo alle prossime, domani, dai. Ciao Luca. Ciao Carlo, dai, ciao Chris, mi sono spostato un attimino a prendere il telefono. Io più tardi non ho l'antenna a casa della mamma, dai. Però ho detto che l'ho buttata a terra. Adesso uno di questi giorni viene un amico e dammi una mano. Me la devo un po' aggiustare, dai. Alla prossima, ciao. Ma qua ho fatto mia mamma per lasciare con l'antenna. L'antenna è a terra. L'antenna lì è un po' messa male, un po' un bel. Che coccia, non ho visto niente di grave. Vabbè, vedendola così, allora, dove c'è innestata il palo, lì è tutta ruggita, si è anche spaccata. Qua si è spaccato il palo o l'antenna, il tubo l'antenna? L'alluminio si è spaccato. Molto. È spaccato, non esce il palo. Bisogna tagliarlo e poi bisogna cambiare tutte le fascette. Allora, i radiali sono usciti una meraviglia, sembra nuova, come sarebbe smontata, cioè piazzata oggi e smontata, bella, lucida lucida. Però lì nell'innesto dove ci sono le fascette era tutta ossidata. Vabbè, normale che lì si è ossidata. Io ho sempre detto di quando montate, quando in estate, di metterle sempre un pochino di grasso nell'innesto, leggero leggero, però io la mia l'ho smontata, è uscita tranquilla, pulita, le ho solo passato lo straccetto, l'ho passata l'intera, la carburazione qua l'ho ricassata, va bene, comunque, e quindi quel tubo adesso come fai a recuperarlo? E adesso vediamo un po' cosa ne esce. Adesso sono nuovi, ma nuovi fiammati, sono tutti lucidati, ci vuole dato una passata di trasparente, radiali, e poi vediamo. Mi serve anche la, come si chiama, la fascetta, quella che tiene la spirale. E quella è una semplice fascetta di quelle gaffette si attaccano al muro, l'ho già spiegato, non è un problema quello. Conosci quelle fascette che tascelli, metti il tassello e l'avviti per mantenere il tubo in plastica, quello di Xiaomi. Adesso vediamo se lo applico come domani, mi compro tutte le fascette in acciaio, vediamo un po' la rimonto, perché la continuità c'è dal PL, dove trovarci il PL, vabbè un po' arrugginito lì, dove ci sono le viti, arrugginito, però da lì, dall'ingresso dal polo caldo, al filo la continuità c'è, perciò l'antenna non è, il cavo non è rotto. Ne ho capito, capito. No, vabbè, se non è rotto quello, fare il resto è una fesseria. Va bene, K. E poi bisogna, vabbè, il palo mi devo comprare, un palo, perché quello che c'è su me lo uso, li faccio i buchi, questo lo dovrò staccare, boh, mi devo organizzare, qualcuno c'è una saldatrice e gli metto i bulloni quelli per farlo telescopico, così quando devo fare qualcosa me lo faccio da solo, senza chiedere niente a nessuno. I vari devi mettere i bulloni per avventarli. Metti due rari, chiave da 13, buchi, metti rari, puntati, poi si fa appena appena salatura, ma ci deve essere uno bravo, se no ti buca il tubo. Ti saldi bene, non c'è problema. Sì, vabbè, i dadi volevo dire, i dadi bulloni, sempre bulloneria e comunque sia, allora. Sì, vabbè, io stamattina ho fatto una passata di spazzola, che c'ha il PL tutto ossidato, era proprio ossidato, secondo me stava facendo più contatto. E allora niente, però ho detto se faccio le cose fatte bene, l'ho preso e l'ho buttata giù. Adesso ce l'ho giù vicino a casa, vabbè tanto c'era solo la base, dico il palo, che cazzo si inavura, poi si inavurami, sono tutta lucidata con la spugnetta, con la per i piatti, con il CRC, e adesso aspetto domani, vediamo un po' cosa ne esce, domani, dopodomani, buh. Domani è andato più, c'è la fica di vento a 49 nodi che sono 100 km orari. E vabbè, domani taglio il palo comunque sia, e domani o l'altra ne riuscì, sennò le lascio adesso un pezzettino, magari me lo innesto diversamente, mi compro un palo più alto, glielo innesto così, chi se ne frega, te sapete che funzioni. Per altri 5-6 anni poi me la cambio, se ne vale la pena di cambiarla, sennò se ti ha condotto e se la biglia in Cuba, da chi levante? Ti ho detto se quel tubo, quel palo che c'è, taglialo 80 cm, 80 cm lo innesti, nell'altro tubo leggermente più grosso, capito? Ma c'è già più grosso, ma vuole più alto. Se lo compri più alto, più grosso, se quello lì deve innestare dentro il tubo telescopico, giusto a misura, se il tubo che tu compri è da 50, quello lì è da 45, deve innestare giusto giusto, e poi siccome è telescopico, praticamente lo chiudi. E adesso vedo un po' se riesco a farlo staccare. cascare, vediamo là. Tanto domani se ci riesco mi stacco la base, perché se è la base, così vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Non l'ho vista bene, se no quel tubo che c'è non lo rompe neanche. Da quant'è quel tubo? Un metro e mezzo, 2 metri, da quant'è quello che ha attaccato l'antenna? Un metro e mezzo. Un metro e mezzo, si pulisce bene con la terra, bene bene bene, si toglie tutta la ruggine, si dà una passata di bomboletta di zinco, lo zinco si prende il diametro, da quant'è, da 35, da 40, da 45, si prende il tubo telescopico più grosso che entra lì dentro e lo fai l'antenna senza smontare niente, lo fai entrare dentro il tubo nuovo. Lo so, ma un casino, male ci metto un casino con l'antenna, ragazzi, è proprio, cioè, di gugliarda, lì, proprio nella parte dove innesta il tubo, tutta di gugliarda, tutta spaccata, Appunto, per evitare di perderla, ti conviene darla una sistemata, stringere bene con qualche fascetta, bella bella robusta, capito? Vulcanizzare bene sopra la fascetta e innestarla in un altro tubo più grosso, in modo che non la tocchi. E adesso vediamo un po' cosa fare, là. Giorno, tempo permettendo, poi non lo so, domenica, vediamo un po' se è a posto, ma la piazza, la ripiazzo su, il capo non c'ha niente, ti do una passatina di coso, di spazzola, pelle a posto, quelle sono pelle buone anche, ma con gliene cambio, a parte non ce ne sono pelle buone in giro. Ho comprato la fuori, io quando ho piazzato l'antenna, cioè, mi ha fatto mandare una bustina alla 5, e me ne sono rimasti 2 soli e mi servono per montare l'antenna nuova, la verticale 5 bande. Sono andato a regattio. Però io ho sempre detto che non serve qualcosa per latte, anziché 5 ne avrei ordinato 10. Se noi avremmo ordinato 5-5 con un'unica spedizione, ti avresti fatto tutti i PL nuovi, io ho preso i PL buoni, no, dici, veneno assassino. Infatti, se non si viene a nulla. Vabbè, un po' lì è buono, è in cose, in bacchilite, di quelli buoni. Ma lo pulisco bene e lo lascio quello. Vabbè, l'antenna lì, le lasci quel tubo da 1,5 metri. Lo pulisci bene con la tela grossa prima, poi con la tela fine. E una bella pulita di straccio, ti compri un bomboletto di zinco a freddo, e una bella bassata di zinco, e lo messi dentro l'altro tubo che vai a comprare, quello che fai telescopico. E così non lo tocchi, perché se non lo toccare lì, secondo me si fa seduta sant'anni. E adesso vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Se avrei, non ce l'ho una morsa, se no me la devo buttare in morsa, però avrei fatto un buco nell'area del palo, bloccata magari in un punto dove riesco a tenerla bloccata, anche lì dalla parte dei radiali, a colpi di martello, male l'avrei, un martello è un coso, no? Come si chiama? Uno scalpello. Vabbè, lì bisogna andarci con un tacco di tavola piano piano, batterla, far uscire tutto l'ossio, sfruttare il CRC e far uscire tutto l'ossio, e piano piano con 2 prussiane girare una parte, se la rompi, capito? Però chiaramente ci vuole un punto di lavoro, non è che lo vuoi far uscire in carriera. Non so, domani è tempo brutto, non tenete a fare niente, perché ha dato una fica di vento, addirittura ha spostato le navi nella zona di Olbia, a quanto stavo leggendo. Quindi sicuramente c'è tempo brutto. Va bene, dai, io sono entrato a salutarvi e me ne vado a pappare. Sentiamo le prossime. Ciao a tutti. E anche io chiudo, ciao.